English 24. Buonasera da Marta Cagnola. E da Giulia Crivelli. Abbiamo cominciato la scorsa settimana parlando di serie televisive. Abbiamo ospitato lo straordinario Jason Lewis. Eravamo già innamorate prima, quando lo guardavamo in Sex and the City. Ci siamo reinnamorati di lui intervistandolo. L'abbiamo incontrato a Taormina, così come abbiamo incontrato al Taormina Film Fest un'altra protagonista di una serie televisiva molto famosa, cioè Lisa Edelstein, grande protagonista di Dr. House, molto famoso anche in Italia. Dr. House si è concluso, lei aveva già abbandonato la serie TV, ma intanto le abbiamo chiesto qual è stato, secondo Lisa Edelstein, il segreto di Dr. House. Well, I definitely learned a lot about writing working on the show because I worked with some of the best. And you know, what magic happens when it happens. It's very hard to create it with that in mind. You can only create something because it's what moves you. It's because that's where your heart is and that's what you're fired up about. You can't really, I can't really think about how it'll be received in that way. I can only create from myself. But in terms of writing, I feel like I've had a crash course by being on that show for so long. Il segreto di Dr. House, lei ovviamente se l'è chiesto, e come era successo la scorsa settimana con Jason Lewis che diceva sto scrivendo, evidentemente anche Lisa Edelstein sta scrivendo, lei ha annunciato che cercherà di produrre un suo nuovo show del quale sarà anche protagonista. Sicuramente ha imparato molto avendo lavorato così tanto in una serie di grande successo. E qui impariamo anche che appunto in America si può usare la parola show, che noi associamo a spettacolo in generale, anche per una serie TV, cioè lei dice working on the show, quindi lavorando al Dr. House, che è una serie televisiva, e dice show. Questo è abbastanza comune, e poi dice I work with some of the best, quindi anche come diceva proprio il nostro amico la scorsa settimana, il segreto poi, secondo gli attori, di una serie del successo di qualche cosa è good writing, quindi una sceneggiatura ottima. Lei addirittura dice qui ho lavorato con i best sceneggiatori della telefilm industry americana. Purtroppo una ricetta per creare la magia non c'è. No, in italiano potremmo dire insomma qualcosa di magico succede e basta. Non si può dire ovviamente a tavolino che Dr. House non si poteva prevedere. Se ci pensate, in effetti medical dramas, come li chiamano gli americani, ce n'erano già stati altri. Insomma, un po' imprevedibile, ma questo forse è il bello di tutto quello che riguarda anche lo show business. Il successo a volte appunto arriva e magic happens when it happens. Sicuramente bisogna fare qualcosa di cui si è molto appassionati. Effettivamente quando un attore firma per una serie non firma per una stagione sola, spesso firma per 5, 6, 7 stagioni ancora prima di iniziare, quindi deve essere molto convinto. E qui infatti lei ci dà tre espressioni per lo stesso concetto, cioè devi fare qualcosa that moves you, che quindi ti spinge, ti emoziona, perché to move è anche moving, vuol dire anche che mi emoziona, qualcosa that where your heart is, qualcosa che quindi è qualcosa che ha a che fare con i tuoi sentimenti, che senti molto, e addirittura che ti senti infiammato su questa cosa, to be fired up about something è proprio aver preso fuoco per qualcosa, quindi insomma più di così deve essere qualcosa che ti sta estremamente a cuore, che quindi fai bene, ecco l'idea è questa. Lei adesso è in fase creativa, però sicuramente dice I can only create for myself, posso solo creare quello per me, cioè quello che piace a me, e però in ogni caso ho fatto, come possiamo dire, un corso intensivo. Sì, un corso, non so, un corso di guida sicura, ecco, dopodiché guidare su un'autostrada diventa facilissimo, quindi un crash course, in realtà appunto più che un corso di guida sicura sarebbe un corso da stuntman, ecco, dopo che ha fatto quello, qualsiasi sceneggiatura si mettesse a scrivere probabilmente sarebbe comunque di buon livello. Bello, ecco. Anche Lisa Edelstein, come ci raccontava la scorsa settimana Jason Lewis, si è presa un momento per sé, si è presa un momento per scrivere, anche perché dice effettivamente è difficile vivere a lungo nell'atmosfera di Hollywood, può essere davvero un ambiente molto impegnativo. Yes, for sure. It's not really, you know, having come from such a wonderful program, it's not worth just jumping on anything just to be working. I'd rather, especially with series, because it's a very long commitment. Should it be successful, it's a very long commitment. And I would never want to spend 7 years, 8 years doing something that didn't make me happy. It's hard to keep your sensitivity and your humanity and what can be a very sick environment, and it breaks people for sure. I think I just stay out of it in my private life, and in my business life, that's business. So I keep it separate. Ho avuto l'impressione di una donna molto sana, di una donna molto lucida, che capisce perfettamente che per lavorare a Hollywood deve avere a che fare con quel mondo for business, business is business, ma nella sua vita privata mantiene i confini con quello che è l'ambiente dello star system. È intelligente, sensible, che non è sensitive come vedremo tra un attimo, anche per un altro motivo, cioè dice non è che dopo having come from such a wonderful program, qui usa la parola program e non show, ma è sempre quello, non era it's not worth jumping on anything, cioè immaginate avrà avuto un sacco di offerte ma non è to jump on, come in italiano, ma non ci sono saltata sopra con l'ansia just to be working, giusto per lavorare ancora, anche perché supponiamo che avesse comunque anche un buon cuscinetto economico per prendersi, per fare delle scelte insomma con calma, perché non ha senso, it's not worth it, dice lei, non ne vale la pena insomma di lavorare solo per lavorare, se poi lo standard da cui vieni era così wonderful. Infatti, perché poi se tu ti impegni subito, commitment, abbiamo parlato molte volte con un'altra serie, bisogna firmare per molti anni, si tutelano così i produttori, perché se magari diventi molto famoso dopo la prima stagione vorresti scappare, invece no, devi garantire un minimo di stagione, quindi devi impegnarti con qualcosa che ami molto. Appunto, una donna molto intelligente ma anche molto sensibile e così andiamo a vedere questi, sì, questi sostantivi difficilissimi. False friend proprio, anzi una coppia di amici, vanno quasi sempre in coppia, perché lei dice it's hard to keep your sensitivity or your humanity, appunto quando hai questo 7-8 years commitment. Sensitivity non è sensibilità, ma è sensibilità, mentre sensible, che ci potrebbe far pensare più immediatamente a sensibilità, sensible è più intelligente, quindi se lei avesse detto to keep you sensible era restare intelligenti, ma invece sensitivity, e non è la sensitività dei sensitivi, quelli che appoggiano le mani e fanno altre cose, quindi sensitive, sensibile, sensible, intelligente. Difficilissimo, insomma, può essere qualcosa di molto difficile da affrontare come questo ambiente di Hollywood, very sick environment, addirittura sick, che da un certo punto di vista significa ovviamente malato, ma anche per estensione è un ambiente negativo. Potremmo dire negativo, che comunque influisce negativamente sulle persone, addirittura secondo lei it breaks people for sure, cioè spezza le persone, quest'idea ovviamente di essere sempre lo stesso personaggio, e come dicevi tu, se hai successo l'ansia di continuare a avere quel successo, puntata dopo puntata, stagione dopo stagione, con gli sceneggiatori che forse sono anche un po' degli avvoltoi, cioè cercano di gettarsi magari sul personaggio che ha meno successo, e chissà, un giorno ti trovi lì con uno script dove ti dice che stai per morire e tu magari non volevi morire. Quindi it breaks people, cioè dal punto di vista naturalmente personale, li fa probabilmente diventare anche persone peggiori di quelle che possono essere, perché lei dice appunto che è difficile mantenere sensitivity e humanity. Ma la celebrità ha anche dei lati positivi, sentiamo. Celebrity is a funny thing. You know, there are certain gifts that come with it that are personal, like you get to go on trips and people give you things. But you also lose out on privacy. You suddenly your personal choices in your life become a conversation for total strangers. But at the same time, if you have a political voice or a charitable bone in your body, that celebrity can be very powerful for that organization or that movement. And if you use it well, then it really helps a lot of people. È una donna molto impegnata in tante cause civili e sociali, Lisa Edelstein. Effettivamente la celebrità ti consente anche questo. Sì, oltre che c'era Fortune o Forbes che ha fatto tutto il calcolo della celebrity economy, cioè di quanto appunto valgono le celebrities per se stessi e per gli altri. Ecco, lei dice molto apertamente certain gifts that come with it, quindi ricevi un sacco di regali, you get to go on trips, ti portano a fare un sacco di bei viaggi, people give you things, le persone ti fanno dei regali, ti danno delle cose, però you also lose out on privacy, to lose out, phrasal verb, che vuol dire perdere naturalmente, con quell'out che rafforza, dice naturalmente quello che perdi, il fronte su cui perdi è quello della privacy. Però quello, oltre a perdere insomma dal punto di vista della privacy, e quindi tutti si fanno i fatti tuoi e le tue scelte diventano un argomento di conversazione per gli estranei, tu puoi fare qualcosa. E poi invece appunto la parte bella è che se hai una voce, se hai un interesse politico, una political voice, lei dice, cioè se c'è qualche cosa dentro di te che vuol venire fuori come opinione politica, o usa questa espressione carina, se c'è un charitable bone in your body, o se nel tuo corpo tra le centinaia di ossa che abbiamo, credo quasi 300, ce n'è una che ha qualche cosa a che fare con un ideale di charity, ebbene celebrity can be powerful. Il fatto di essere una celebrità è una cosa molto potente. If you use it well, se la usi bene, it helps a lot of people. Brava Lisa Edelstein, molto amata in Italia grazie a Dr. House. Aspettiamo quindi il suo nuovo show che sta scrivendo, insomma ci vorrà ancora un po' di tempo perché lei si è presa tempo per riflettere. Si conclude qui il nostro appuntamento con English 24. Vi ricordo l'appuntamento con la nostra rivista in edicola. Da Marta Cagnola e Giulia Crivelli, l'augurio di una buona serata.